L'altro pianeta di Laura Bettini. Signore e signori, benvenuti all'EcoCD del Manzarella Quartet. I suoni che sentirete non provengono da strumenti musicalieri, bensì da oggetti di uso comune, elaborati al caso. Non buttate nulla, quindi. Tutto può far musica, perché... Buon pomeriggio da Laura Bettini. Abbiamo sentito i Manzarella Quartet e li abbiamo anche in studio con noi, quindi diamo subito loro il benvenuto. Sono in studio Alessandro Castelli. Buongiorno. E Simone Gallarini, detto anche Simo Galla. Sì. Buongiorno a tutti. Oh, manca un altro elemento fondante di questo gruppo che noi abbiamo conosciuto qui all'Altro Pianeta qualche anno fa, forse qualcuno se lo ricorderà, che è Giovanni Sessa, che oggi non può essere qui con noi perché ha avuto un incidente sul lavoro, non so, insomma, comunque non sta bene, quindi non ci può, un piccolo infortunio, e anzi gli auguriamo di guarire al più presto e di poterci venire a trovare nella prossima occasione, perché di lavoro ne avete tanto ultimamente, quindi ci sono tante cose da raccontare negli ultimi anni, no Alessandro? Che sì. Avete fatto da quando io vi ho conosciuto con i vostri strumenti di cui parliamo tra pochissimo? Sì, stiamo portando il suono del riciclo in diversi contesti, al di là di quello puramente musicale, che possono essere eventi artistici, eventi ecologici, ma stiamo entrando più in ambiti aziendali, quindi ambiti produttivi, quindi portiamo la musica nelle aziende. Ok, portate la musica nelle aziende con la vostra formula, che è quella di suonare ciò che potrebbe essere scarto, magari considerato in altre occasioni, quindi di recuperare e trasformare in strumento musicale ciò che non era strumento musicale all'origine. Facciamo qualche esempio, magari, Simone. Sì, allora, come hai detto, la nostra filosofia è di recuperare oggetti, diciamo, comuni. Ad esempio, nelle aziende prendiamo i prodotti dell'azienda e li trasformiamo. Quindi, ad esempio, noi utilizziamo, Alessandro suona una tegliara, che è essenzialmente una chitarra costruita con una teglia, una comunissima teglia. Quella da lasagne, per esempio. Sì, quella da lasagne. Diciamo, abbiamo anche qualche problema in seguito a questa scelta, perché qualche piccolo problema in cucina. In famiglia? Sì, manca ecco, qualche pezzetto. Sono nati alcuni problemi, vabbè, in seguito a questo. Poi Giovanni suona quello che noi chiamiamo il bidon basso, che è un contrabbasso costruito con un bidone, un bastone e una corda comune per stendere i panni. Poi abbiamo una ecobatteria, che è costruita con... Che è la tua? Sì, è la mia, è quella che sono io. È costruita con un assortimento di pentole, bidoni, piatti e tutto quello che si può percuotere. E poi abbiamo tutta una serie di altri strumenti, come ad esempio uno strumento che vedremo magari più tardi, che è lo stendofono, che sentiremo più tardi, oppure... lo stendofono da dove nasce però? Cos'è uno stendi qualcosa? Sì, nasce da uno stendino, perché diciamo... la reazione che abbiamo avuto quando abbiamo visto uno di quegli stendini da balcone, no? Che si attaccano al balcone, è stata: cavolo, ha 6 corde, però nessuno ha mai pensato a suonarlo, no? Quindi abbiamo preso uno di questi stendini e ci abbiamo applicato una cassa armonica fatta con una scatola di quella dei vini in legno, e ci abbiamo applicato sopra delle corde riciclate di una vecchia chitarra di Alessandro. E niente, quindi abbiamo ottenuto questo strumento che è molto simile a un sitar come suono. Che poi ci fate sentire, vero? Sì, perché sì. Avete portato poi una filosofia minima di tutte le vostre produzioni, certo. Che non sono solo produzioni di strumenti musicali, appunto, da oggetti che avevano un'altra funzione, che sarebbero stati buttati perché non più funzionanti, magari, o le teglie, no, magari. Così, ma è anche una produzione di testi. di testi su argomenti che riguardano la sostenibilità, l'attenzione all'ambiente, il riciclo per l'appunto, l'energia. C'è un po' di tutto, no, nel vostro repertorio, Alessandro? Sì, sì, sì. Partono, le nostre canzoni nascono dall'osservazione di ciò che ci circonda, esperienze di vita, esperienze sul lavoro. Cioè noi, oltre che musicisti, anzi siamo professionisti più che musicisti, quindi tutto quello che noi in facciamo altri ambiti, in altri ambiti, non prettamente musicali, quindi ognuno di noi, oltre che la musica, ha anche attività che ci impegnano durante la giornata in ambiti differenti. L'osservazione del mondo che ci circonda porta a riflessioni e quindi a scrivere testi che fanno parte un po' del nostro percorso di vita. Quindi, ad esempio, la canzone che abbiamo sentito poco fa era L'inno del riciclo, che è un po' il nostro cavallo di battaglia. Poi ci sono canzoni che riguardano, ad esempio, Il Casellante parla del nostro rapporto un po' non proprio, non proprio sereno, non proprio sereno con i casellanti, visto che spesso siamo in autostrada per i nostri spostamenti, quindi queste relazioni un po' difficili ci hanno portato a scrivere una canzone sul casellante. Altro ancora, Il Grande Affare è un'altra canzone che riguarda la tematica energetica, quindi questa è stata scritta in seguito al disastro nucleare di Fukushima. Quindi sono canzoni spesso leggere, allegre, ma anche che trattano temi, trattano un argomenti più impegnativi, pesanti, diciamo, sì. Impegnativi. Sì, sì. I Manzella, quando nascono, per dare un'origine, diciamo, a questo gruppo temporale, intendo? Allora, il Manzella Quartet è nato nel 2007, però è nato come formazione normale, classica, quindi con strumenti veri. Poi dopo è successo, per una coincidenza, che Alessandro e Giovanni, per motivi di lavoro, si sono incontrati e hanno scoperto di avere in comune la passione per la musica. Giovanni, che aveva quindi già... Quindi non erano, all'inizio no. Non eravate dei Manzella, chi c'era all'inizio? Solo io. Solo tu, sì. Ok. Sì, poi altri componenti. Che... Poi è arrivato Giovanni. È arrivato Giovanni, che ha avuto questa idea di portare in giro un gruppo che facesse musica, diciamo, pop, essenzialmente, però con strumenti riciclati, con strumenti non comuni, perché diciamo strumenti che gruppi che utilizzano strumenti non comuni esistono, però normalmente sono limitati all'ambito delle percussioni e basta. Quindi la sua idea è stata: perché non facciamo qualcosa di più simile, diciamo, alla musica pop. E niente, quindi da lì è nato il gruppo. Tu quando ci sei arrivato? Io sono arrivato nel 2008. Quindi praticamente all'inizio, insomma, comunque. Sì, allora. Sì, sei quasi un cofondatore della band. Quasi un cofondatore. Sì, sono quasi 10 anni ormai. Dove si è formato questo gruppo? Non l'abbiamo ancora detto. La Bassa Bergamasca è il fulcro, siamo dalla zona di Caravaggio. Ok. Quindi spesso siete in autostrada, poi sì. La A4, come sappiamo, anche è anche piuttosto trafficata, c'è anche sì. La Brebemi, c'è un po' tutto. Diciamo, c'è anche una nuova canzone che parla proprio della A4, però adesso sì, stiamo ci stiamo lavorando. Sì, sì, ok, va bene, ma chi vuole sentirla magari la trova su internet. Voi avete suonato tantissimo in giro nelle piazze, nei festival, no? Quindi insomma ci sono varie performance vostre da trovare, sì, anche sì, sì. Su internet, per chi avesse curiosità. Adesso noi faremo sentire via via delle alcune canzoni, però ovviamente... non diamo spazio a 3 minuti completi di certo. Canzone, chi la vuole ascoltare poi vi contatta, la trova in qualche maniera, siete facilissimi da trovare. Allora, che dite, facciamo sentire qualcos'altro, sì. Magari a questo proposito, no? Allora, ci siamo messi in scaletta Il Panino Assassino. Fantastica. Che è già un titolo, che è un programma. Andrea Roccabella in regia oggi ci assiste e quindi facciamola sentire. Salgo le scale, si apre la porta, dritto al bancone una coda infinita, ma chi se ne importa? Guardo i panini nella vetrina, felino, caprese, camoi, una tipa li fa in cucina. Ne scelgo uno, senza fiatare, panino leggero con tanta verdura, ma non esagerare. Dolce fanciulla, con la divisa, deve passare alla cassa perché qui nessuno si fida. Insomma, qui abbiamo un assaggio, no? Sì, un assaggio. Intanto, che strumenti abbiamo sentito? Il primo strumento interessante è proprio nell'intro, è uno stendofono, quindi quello di cui parlava Simone prima, è questo sitar che crea una sorta di atmosfera un po' onirica, un po' galleggiante, che abbiamo sentito all'inizio della canzone. Quindi qua tutto quello che stiamo sentendo comunque non è strumento musicale, è oggetto musicale. Oggetto musicale. Il testo qui di chi è? Collettivo? Sì, il testo è collettivo. Sì. Ma di solito capita di scrivere anche in macchina, in autostrada, mentre... Direi che l'autostrada però è il fil rouge. Sì, sì, sì, sì. Beh, questa in particolare è nata proprio dalle nostre esperienze. L'ossessione della pianura padana, sì, più o meno, l'autostrada. Sì, sì, l'autogrill. Spesso, specialmente per i concerti, ci troviamo a viaggiare insieme e diciamo... Questa esperienza del panino assassino ci ha segnato. Sì, decisamente. Sì. Sentiamo un altro pezzettino, vediamo dove siamo arrivati. Il panino non va nessuno giù. Non va nessuno giù. No. Questo panino fantastico, sì, in effetti dopo una indigestione provocata da un panino che purtroppo ci siamo dovuti mangiare di corsa. Questo qui non è un discorso tanto di riciclo e sostenibilità, qui forse più di qualità del cibo, qui siamo un po' più su quel piano lì. Però ecco, questo della composizione, so che fa parte anche dell'attività nuova che i Manzella stanno portando avanti negli ultimi tempi, no? Che è quella di costruire un testo con persone che si ritrovano e che abitualmente fanno tutt'altra professione. Ed è quindi, no? Questo è, siamo al Playing Factory, questa è la parte nuova della vostra attività. Che cos'è? Sì, questo è un progetto di team building che stiamo portando all'interno di aziende. Comprende, oltre che alla creazione di testi musicali, di testi di canzoni aziendali, possiamo chiamarle così, comprende anche un percorso di riciclo che parte da una nostra selezione di pezzi interessanti che un'azienda può produrre, valutiamo se sono utilizzabili come strumento musicale, poi assembliamo dei veri e propri strumenti, quindi che sono dei prototipi in sostanza, che potranno essere usati come esempio in successivi laboratori che noi organizziamo nelle aziende. Quindi. Ok, quindi praticamente voi entrate in un'azienda, vabbè, vi si dà il permesso, c'è un invito, sì, e uno bussate. Guardate in giro cosa c'è e vedete se c'è qualcosa che si può trasformare, quindi che può diventare nel materiale di scarto. Sì. Dove siete andati? Perché qua c'è qualcosa che purtroppo gli ascoltatori non possono vedere, però che cos'è questo? Ma allora, per esempio, recentemente abbiamo fatto questo tipo di lavoro alla Colombo Filippetti e Bettinelli, che sono due aziende, diciamo, consociate, che lavorano nel settore metalmeccanico. E quindi quando siamo andati a fare questa ispezione nei loro magazzini siamo rimasti colpiti dalle camme che loro producono e utilizzano nei loro movimentatori meccanici. Le camme sono questi pezzi metallici? Sì, che sono delle essenzialmente delle piastre con delle forme particolari e sono che fanno muovere degli ingranaggi, insomma, diciamola un po' così. Ecco. Fanno muovere le braccia di questi diciamo, robot in maniera particolare. E niente, noi siamo rimasti colpiti dal suono ovviamente di questi componenti che sono fatti essenzialmente di acciaio e abbiamo costruito con varie dimensioni e diversi spessori, tanto sì, varie forme, spessori e dimensioni, e abbiamo costruito questo strumento che noi chiamiamo cammofono, essendo fatto con delle camme. Giustamente. E essenzialmente è una sorta di glockenspiel che è diciamo un xilofono, però con fatto di metallo, che possiamo anche ascoltare, che a seconda delle dimensioni delle camme che vengono colpite nascono dei suoni con una intonazione diversa. E niente, quindi noi cosa facciamo? Costruiamo questi strumenti e poi li incorporiamo all'interno delle nostre canzoni e del nostro spettacolo, coinvolgendo anche, diciamo, attivamente i lavoratori dell'azienda in cui noi facciamo questa attività. Ok, e quindi possono avere un'idea di come altro usare in modo diverso ciò che hanno tutti i giorni di fronte per lavoro, no? Sì. O magari che avrebbero scartato perché questa... Una nobilitazione. Dello scarto. Quindi anche un'idea di come guardare le cose in modo diverso, sì. Perché poi alla fine anche quello è, no? Tu, sì. Questa la chiama camme? Cammofono. Sì. Camme. Al singolare com'è che è? Camma. Camma. Uno ha una camma e ha sempre giudicato che sia una cosa per il suo lavoro, non ha mai pensato che potesse essere altro che quello, no? Invece magari anche la bottiglia, non magari, lo so perché l'avete fatto, anche la bottiglia di plastica può essere uno strumento, questo è già più facile da intuire, sì. Che possa trasformarsi in qualcosa che suona. Quell'altra probabilmente non ci avevano mai pensato. Fa parte del processo della... economia circolare in sostanza può essere vista anche in quest'ottica. Certo, guardare con un'ottica diversa quello di cui disponiamo. E lo strumento invece vicino a te, Alessandro, cos'è? Io poi invece un battifono. E in sostanza, allora, tutti questi strumenti li potete vedere su playinfactory.it. Abbiamo dei video in cui spieghiamo ogni strumento particolare che noi utilizziamo. Questo ad esempio è formato da due listelli di legno con dei chiodi che tengono fermi dei battiscopa sagomati, tagliati in differenti misure, un po' è il concetto del cammofono che abbiamo fatto sentire poco fa, quindi più il listello è piccolo di dimensione più il suono è acuto, quindi in sostanza si ha una sorta di marimba, però non è una marimba, no. E qui marimba. Però ecco, questa è una cosa che uno potrebbe tranquillamente fare a casa, forse con il materiale che ha a disposizione, sì. Perché vedo listelli di legno, battiscopa, vabbè, se non ce l'hai in casa è facile recuperarlo, insomma. Ci sono poi dei sugheri, dei tappi, sì. Di sughero tagliati ad hoc in modo che e delle viti, sì. Quindi molto semplice, forse sì, anche sì, da sì. Far riprodurre a dei ragazzi in una scuola, sì. Per... Parte dei nostri progetti coinvolge anche ragazzi delle scuole, ragazzini, scuole elementari, facciamo anche laboratori per le scuole, quindi anche questo è previsto. Ok, quindi anche nelle scuole portate il verbo del riciclo, sì. Dell'occhio diverso, sì, sì, sul mondo, sì. Che ci circonda, questo è molto bello. Sentiamo il casellante, sì. Perché ne abbiamo tanto parlato, dell'A4, dei panini, tutto quello che c'è. Sentiamo anche il casellante. Hai mai pensato che... il casellante potrebbe in realtà non esistere. Forse è solo una mano. Vengo a prenderti stasera. Finalmente il weekend. Non vedevo l'ora. Play dei panini, come in gita a scuola. 115 chilometri, il raccordo per l'uscita. Coda interminabile, che fatica. Schiaccio il freno, metto in folle, tiro giù il mio finestrino. Cerco l'uomo con lo sguardo, lui nemmeno un sorrisino. Ma il tipo c'è o è? In vacanza è lui il casello, lo capisco, lo perdono. Non sorrider mai, che bello, per contratto di lavoro. Ecco qua il casellante che non sorride per contratto. C'è poco da ridere, però adesso diciamocelo, non, sì. È un lavoro divertentissimo e senz'altro. Piuttosto noioso. Infatti, sicuramente alla fine... ce ne sono tanti di lavori noiosi, non è che... alla fine la canzone infatti lo giustifichiamo, insomma può, sì. Anche essere che le condizioni di lavoro che vivono, sì. Insomma, portino un po' a essere un po' stanchi, sì, un po' immusoniti. Che strumenti, sì. C'erano qua? Da... qui c'è il battifono. Qua c'è il famoso battifono. Il famoso battifono è incluso. Ci sono anche... beh, ovviamente la tegliara. Che è il filo conduttore. Bidon basso, che è quella cosa che fa boom, boom, boom, che si, okay. Sentiva in sottofondo. E poi l'ecobatteria. Sì. E sì. L'ecobatteria. Che cosa vi ha ispirato nelle canzoni che state preparando adesso? Che cose... qui c'era tanta strada, abbiamo capito, in questo primo... che non è il primo, comunque, in questo CD che hai portato, Alessandro. Adesso su cosa... stiamo lavorando su argomenti, allora sempre concetto strada, che comunque quello non guasta mai. Una canzone dedicata, allora, non me ne vogliano comunque gli amici svizzeri, sugli svizzeri sulla 4. E boh, mi capita spesso di, insomma, siamo 130 in autostrada, belli precisini, poi ti passa da parte un aereo, un'astronave a 250 all'ora. Ma ce l'hanno ancora i finestrini oscurati come una volta? Erano famosi per questo. Non lo so. Ribassata, la Golf ribassata. Queste astronavi che passano a 300 all'ora, questa cosa mi ha portato un po' di ispirazione e è venuta fuori una canzone. Adesso lo stiamo incidendo comunque sempre con i nostri strumenti. Ma il taglio qui ecologista c'è un po' meno, o forse è una questione anche di forse solo più di costumi e civiltà. Sì, un po' più sul costume. Come dicevo, cioè, tutto ci ispira e tutto ci porta a scrivere canzoni. Quindi la tematica ecologica comunque noi la portiamo sempre in giro con i nostri strumenti. Di quello che viviamo adesso, in questo periodo, Simone, a te cosa ispira, diciamo, per nuovi testi? Ma allora, recentemente abbiamo iniziato a lavorare su questo pezzo che parla del meteo, cioè di come le previsioni meteo siano importanti per noi oggi, nel senso che prima di fare qualsiasi cosa noi comunque dobbiamo sempre prendere il cellulare, andare a vedere che cosa prevede, certo, il meteo, in base a questo decidere che cosa fare. E molto spesso questo porta al fallimento del nostro progetto, perché magari il meteo dice ci sarà pioggia, disastro, e invece bel tempo. O il contrario. Quindi questa è una tematica... Che poi non si sa se è colpa del meteo o è colpa del clima impazzito, diciamo così. No, sì, vabbè, quindi alla fine c'è sempre qualcosa di o magari della dipendenza ecologico. Dal cellulare. O dipendenza dal cellulare, per esempio, può essere questo, il voler sempre sapere tutto prima. Sì, sì. Senza poi neanche poi magari godersi la giornata così com'è. Non ti gusti la giornata, la vita, non te la vivi a pieno perché devi sempre guardare altro. Quindi. Sì, è vero, si pensa sempre cioè come gestire le cose, e no, guardando sempre avanti e mai pensando che invece magari ci potremmo tranquillamente godere questo momento in cui siete qui con gli strumenti e non pensare a quando tornate dopo. Al traffico. Oggi non c'è, perlomeno almeno quello sabato ci verrà risparmiato. Va bene, allora... che dire, ma voi siete sempre stati famosi per essere una formazione instabile, a parte quei tre stabili, sì, che siete voi due e Giovanni, sì, a casa, che salutiamo ancora una volta. Sì, sì. Chi gira intorno a questa formazione adesso, che magari vi sta dando anche qualche ispirazione per la composizione, per gli strumenti, oppure adesso tanto il lavoro con le imprese del territorio, che quindi... l'instabilità ve la danno le imprese, per esempio, con i loro dipendenti che partecipano. Cioè, magari qualcuno si inserirà prima o poi. Sì, sì, ma capita anche che dipendenti dell'azienda durante questi eventi vengano sul palco con noi di loro spontanea volontà e cantino e suonino con noi improvvisando. Quindi la cosa che portiamo nell'azienda è molto bella, perché si sentono tutti partecipi. Legata proprio a questi spostamenti di zona, c'è proprio anche l'utilità di essere instabili come formazione. Pertanto ogni dove ci muoviamo qualcuno in zona c'è che può suonare con noi. Quindi oltre al nucleo di tre persone... Perché quindi nel tempo in cui vi siete mossi negli anni, eccetera, eccetera, avete fatto dei proseliti, sì, e anche... Sì, dei, sì, sì. Quindi in base all'area dove ci muoviamo possiamo essere in 4, in 5, 6 persone che suonano. Ricordo sempre che non essendo specificamente solo professionisti in ambito musicale, spesso ci sono anche altri impegni che possono portare alla mancanza di un musicista. Quindi il nucleo di 3 poi viene a completarsi e diventare 4 o 5 persone, 5 musicisti, in base anche agli impegni che ognuno può avere. Quindi instabile, però stabile perché siamo organizzati. È l'obiettivo anche, quello... stabile. L'obiettivo è anche questo, sì, no, che sappiamo, abbiamo detto, degli strumenti, dei testi, della promozione, sì, di un certo, no, di certe idee, di certi obiettivi, appunto, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle piazze. Sì. Nelle piazze vi piace ancora suonare? Io mi ricordo quando eravate andati, credo, al Busker Festival, sì, giusto? Quella è stata la prima esperienza musicale vera del Manzella Quartet, perché tutto era nato anche in funzione di questo impegno. Quindi l'idea di andare come prima esperienza, come band con strumenti tradizionali, non ci piaceva. Cioè volevamo qualcosa di differente. E quindi anche questo ha scatenato la voglia di inventare qualcosa di nuovo. E pertanto l'idea del riciclo è nata perché volevamo portare al Ferrara Busker Festival qualcosa che fosse veramente diverso. E ci siamo riusciti. E da lì poi è partito tutto lo sviluppo della band e del progetto, che adesso è sempre più ampio e coinvolge sempre più ambiti. Ma riuscite ancora a tenere degli spazi? Cioè, dicevi giustamente, ciascuno di voi poi ha una professione, perché poi comunque il suonare è una professione, ma magari, sì, non dà da mangiare, come sappiamo, insomma, Sì. È un percorso molto lento, è un percorso faticoso, è un percorso eccetera eccetera. Riuscite a conciliare, cioè che tipo di lavoro fate che vi consente di portare avanti anche tutto il resto? Sì, io sono imprenditore, quindi avendo uno studio di comunicazione ho collaboratori che fortunatamente sanno di questa mia passione e tappano e quindi mi aiutano e spesso devo rincorrermi, quindi per me è un po' più semplice. Simone? Io lavoro nell'ambito della ricerca universitaria e comunque diciamo c'è una ricerca universitaria di che tipo? Non c'entra con la musica? Nell'ambito dell'energia. Ok. E delle belle idee per i testi, quindi anche niente, comunque riesco a conciliare tutto, ecco. Non è facile, infatti Giovanni, beh, lui lavora, adesso non mi ricordo, responsabile commerciale esatto, per la carta, in ambito carta, quindi insomma vabbè, non è facile gestire, ma è ancora possibile, sì, diciamo, sì, sì. Così ancora. Bene. Che cosa vi proponete a breve? Magari c'è qualche appuntamento che vogliamo segnalare per agli ascoltatori, per chi fosse curioso di vedere la Tegliarra? Allora, posso consigliare di andare sul sito manzellaquartet.it in modo da avere un po' una panoramica di chi siamo, cosa facciamo. Poi ci sono tutti i canali social nei quali basta inserire il nostro nome e noi veniamo fuori. Abbiamo anche un canale SoundCloud sul quale potete sentire tutte le nostre produzioni musicali, quindi i due CD che abbiamo creato. Poi di attività attuali siamo concentrati sul progetto Playing Factory e sulle aziende, e stiamo creando canzoni nuove, quindi in questo momento tutta l'attenzione è concentrata su questo. Nel frattempo, per la stagione estiva soprattutto, stiamo pensando a organizzare un tour, quindi sui nostri canali web potete trovare tutte le informazioni, gli aggiornamenti. Allora, ci resta una canzone, ci resta circa un minuto, quindi forse vale la pena di sentire almeno l'attacco, no? Abbiamo ancora Che spesa sarà e poi ci salutiamo. Bene. Adesso vi dico cosa m'è capitato, ero all'Esselunga, lì per la spesa, preparare la cena, una cosa in fretta, volevo solo comprare qualche cosa da fare, pane e latte fresco, ma giro il contenitore, leggo gli ingredienti e poi tutto il resto. Luogo fresco. L'etichetta è difficile da leggere. L'etichetta è difficile da leggere. E noi ne abbiamo parlato molto all'altro pianeta, tra l'altro, di etichette. Abbiamo giusto i secondi necessari a salutarci. E io vi ringrazio, Alessandro Castelli e Simone Gallarini. Grazie per essere stati grazie qui te, oggi. Grazie a te. Giovanni Sessa, ti salutiamo. Ciao, e vienici a trovare presto. Andrea Roccabella in regia. L'altro pianeta vi dà appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, da Laura Bettini. Buon ascolto. We'll be right back.